all'altezza con il nostro fisico, magari arrugginito. Il nostro proprio un programma per pigri o per persone che magari per gli impegni lavorativi amerebbero fare moto, però non hanno tempo. Abbiamo detto che è un programma adatto a tutti, soprattutto perché è graduale, lavora su diverse fasce muscolari e quant'altro. Ci potrebbero però essere delle controindicazioni? Sì, noi non siamo entrati sugli aspetti più medicali, se vogliamo, di questo nostro intervento. È chiaro che ci sono delle controindicazioni. Le controindicazioni, forse non è la parola, il termine esatto, però no, direi che ci sono delle persone che ovviamente non possono pensare di impostare la loro attività seguendo così in modo anche abbastanza fedele e semplice un programma radiofonico, comunque dei suggerimenti dati con queste modalità. Penso in particolare a coloro che hanno importanti patologie cardiovascolari, si pensi alle aritmie, si pensi a situazioni di questo genere, a un'ipertensione grave, i quali è ovvio che hanno un grosso beneficio dall'esercizio fisico, però hanno bisogno che sia costruito in modo individuale sulle loro caratteristiche dopo esami approfonditi, e quindi è meglio che non lo impostino in modo così empirico o individuale. Lo stesso vale per i dismetabolici grave, per un diabetico è sicuramente importante fare attività fisica, però se ci sono problematiche importanti nel controllo della glicemia non può improvvisarla, deve gestirla in relazione all'alimentazione, all'intensità del lavoro, anche lui in modo individualizzato. Si pensi alle persone in sovrappeso importante o addirittura con caratteristiche di obesità, per cui anche soltanto camminare mezz'ora, 45 minuti, come ci siamo detti la settimana scorsa, può comportare un sovraccarico a livello, che so, delle anche o dei ginocchi, tale da comportare più danno che non beneficio. Si pensi infine a coloro che hanno problematiche articolari specifiche, cioè se io ho un problema specifico a livello del ginocchio, a livello della colonna lombare o quant'altro, e lo vado a sollecitare in modo continuativo con l'esercizio fisico, rischio di fare più danno che beneficio. Escluse a grandi linee queste categorie, direi che per tutti gli altri non esistono controindicazioni forti. Quali potrebbero essere i problemi che i nostri ascoltatori che hanno così partecipato alla nostra prima lezione possono aver incontrato nel corso di questa settimana? Ma direi i dolori muscolari, di cui abbiamo già parlato settimana scorsa, però tutto è un buon segnale. Problematiche magari di crampi, soprattutto per chi fa della bicicletta, per chi ha fatto del nuoto, dell'acqua fitness o quant'altro, e allora qui dovremmo vedere di idratarci in modo adeguato, cioè di bere in modo adeguato prima e durante l'esercizio. Non dovremmo mai avere la sensazione di sete, perché la sensazione di sete di per sé significa che c'è già uno squilibrio, e quindi mangiare in modo adeguato e bere in modo adeguato. Problemi di difficoltà crescente durante i diversi allenamenti, cioè magari io la prima volta ho fatto poca fatica, la seconda di più, la terza ancora di più. Sì. Allora vuol dire che il nostro corpo non è riuscito ad adattarsi al lavoro. E in questo caso cosa si fa? In questo caso conviene o diradare gli allenamenti, quindi invece che farne 3-4 alla settimana, farne 2-3, lasciar passare 2 giorni invece di uno, o ridurre la durata dell'allenamento, quindi passare da 60 a 40 minuti, perché se non c'è un adattamento progressivo è chiaro che l'effetto non è benefico, ma c'è una sorta di disallenamento, e quindi dobbiamo assolutamente rimodulare quello che in gergo viene definito carico allenante. Quindi se facciamo troppa fatica, e soprattutto se vediamo una difficoltà crescente da un allenamento all'altro. Cioè io sono uscito in mountain bike, ho fatto il mio solito percorso da 45 minuti, la prima volta sono arrivato senza grosse difficoltà in 3/4 d'ora, la seconda volta ci ho messo 50 minuti ed ero molto più stanco. Un campanello d'allarme. Sì, se le condizioni esterne erano uguali, perché se la prima volta faceva caldo, la seconda freddo, viceversa, è chiaro che... Bravo, caldo-freddo. Ore ideali, naturalmente, la mattina presto e poi la sera, giusto? Direi di sì, direi proprio di Eviterei comunque le ore centrali, perché fa sempre un caldo terribile. Sempre correttamente alimentati, però queste sono le ore ideali. Quindi non iniziare ad esempio il nostro programma di camminata, di nuoto, magari approfittiamo proprio delle ore più fresche, dicendo colazione la faccio dopo. Assolutamente no. La faccio prima e poi esco. Allora, abbiamo detto che questa sarebbe stata un po' la puntata calda, perché ci occupiamo di addominali, glutei e zona lombare. Sì, esatto. Allora, cominciamo ad articolare in modo un pochino più complesso il nostro allenamento. Quindi direi, tenendo sempre come riferimento, adesso prendete appunti, è la parte centrale di questo nostro incontro, tenendo sempre come riferimento i tre allenamenti settimanali, direi che noi possiamo dedicare un allenamento ancora esclusivamente al condizionamento cardiovascolare e respiratorio, alla resistenza. Quindi continueremo con l'attività che avevamo scelto, nuoto, camminata, però aumenteremo la durata, non aumenteremo l'intensità del lavoro, quindi avremo sempre quelle frequenze cardiache di riferimento che ci eravamo dati. Ridiamole, perché magari circa il 50-60% in più rispetto alla frequenza cardiaca a riposo. E però se facevamo 60 minuti di cammino cercheremo di farne 90, se facevamo 45 minuti di mountain bike cercheremo di farne 60 e così via. Quindi un allenamento sarà uguale come tipologia di lavoro e come intensità di lavoro, ma di durata aumentata, e sarà dedicato esclusivamente alla resistenza, diciamo così. A fare fiato. A fare fiato, bravissimo. Questa è una definizione propria. Bene. E adesso qua gli altri due allenamenti invece introdurremo un potenziamento specifico di alcuni gruppi muscolari che, oltre ad avere una grossa valenza estetica, se vogliamo, addominali, glutei e anche la zona lombare, hanno una valenza enorme per il nostro benessere, perché questa cintura pelvica è fondamentale proprio per la funzionalità e per l'efficienza del nostro apparato locomotore, quindi sia per le gambe che per la colonna e quindi per la parte superiore del nostro corpo. Quindi partiamo da qui, perché partire lavorando su addominali, glutei e zona lombare ci consente di raggiungere sia un obiettivo estetico sia un obiettivo funzionale. Questo ci piace molto. Bene, come fare? È lì che dura. Allora direi che dovremmo privilegiare esercitazioni di tipo isometrico, cioè esercitazioni nelle quali non c'è movimento ma c'è soltanto contrazione muscolare. Quindi è un po' meno faticoso. È meno faticoso, non tanto, soprattutto è meno a rischio per le articolazioni, perché non essendoci movimento degli arti o del corpo non c'è sovraccarico dell'articolazione. E quindi siamo a posto. In pratica come cosa facciamo? Fare? Cerchiamo di spiegarlo in modo semplice. Per gli addominali noi possiamo partire dalla posizione sdraiati sulla schiena con le ginocchia raccolte, diciamo così, con le gambe raccolte, e simulare il sollevamento del busto verso le gambe. Sì. Lo simuliamo rimanendo fermi e quindi otteniamo la contrazione della muscolatura addominale. Faremo delle serie, anche qui, non so, inizialmente si può cominciare con 4 volte 10 simulazioni o 10 contrazioni, ok? Per un totale di circa 40 esercitazioni. Quindi distesi, gambe raccolte, simuliamo il sollevamento del busto verso le gambe. Però ci si ferma un po', vero? Quando sì, ci si ferma 2-3 secondi nella posizione di contrazione. È lì che è difficile. Un po'. Relativamente. La stessa cosa la applichiamo per quanto riguarda i glutei. In questo caso noi stiamo sdraiati proni, cioè sulla pancia, e simuliamo il sollevamento della gamba verso l'alto. Se voi simulate questo tipo di esercizio vedete che sia proprio la contrazione dei glutei. Sì. Anche qui lo facciamo alternativamente con una gamba e con l'altra, quindi con uno o l'altro dei due glutei. Anche qui direi il totale sono circa 40 ripetizioni, quindi 20 per gamba. Terzo esercizio, fatto allo stesso modo, riguarda tutta la muscolatura lombare. Siamo sempre in posizione prona, cioè sdraiati sulla pancia, così come quando lavoravamo per i glutei. Mettiamo, se siamo in grado di farlo, se no non è fondamentale, le mani dietro la nuca, e simuliamo in questo caso non il sollevamento della gamba, ma il sollevamento del busto verso l'alto. Ma vedrete i piedi? Che sì, i piedi rimangono bloccati a terra e vedrete che sentirete proprio una contrazione della parte bassa della colonna. Anche qui circa 40 ripetizioni. Quindi facciamo addominali, glutei e lombare. E zona lombare. In tutto quanto ci impegna tutte queste... Questo lavoro dovrebbe impegnarci circa 20 minuti. Ok. Come inseriamo questo lavoro nel nostro programma settimanale? Perché io lo metterei al mercoledì, ad esempio. Lei lo metterebbe, tu lo metteresti al mercoledì, però attenzione, nel programma settimanale vorrei che ci fossero tre allenamenti. Un allenamento, abbiamo detto, dedicato al fare fiato. Un allenamento in cui facciamo 20 minuti dedicati ad addominali, lombari, glutei, così come abbiamo detto. Sì. E lo completiamo con circa 20-30 minuti ancora di attività aerobica. Sì. Però ad un'intensità relativamente più alta. Perché, quindi, meno tempo. Bravissima. E infine un terzo allenamento in cui ripetiamo il lavoro su addominali, lombari e glutei. Però facciamo soltanto quello, magari lo terminiamo con un po' di esercitazioni di allungamento, di stretching, di mobilità, di cui magari torneremo a parlare allora, la prossima quindi volta. Diamo una sorta di menu. Io lunedì inizierei, perché si inizia la settimana e uno magari non tutti sono in vacanza, facciamo quello di più semplice, cammino, nuoto, facciamo Bravissimo. Fiato. Il mercoledì facciamo un po' addominali, glutei e fascia lombare con 10-20 minuti di nuoto, cammino, Perfetto. Mountain bike. E terminiamo il venerdì tranquillamente soltanto con una ventina di minuti di addominali, lombari, glutei più un po' di allungamento muscolare, mobilità, rilassamento e quant'altro. Perfetto, così siamo in forma per il weekend, magari qualcuno va a ballare e anche quello fa. Assolutamente. Dottor Confalonieri, alla prossima settimana, grazie. E per oggi è tutto, un saluto. Saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.